ci senti? Vediamo se noi sentiamo te. Sì, ciao. Eccoti, ci sei. E ci siamo lasciati prima in un momento di particolare tensione dalla piazza, eravate alla Place de la Nation. Ci racconti cosa è successo in questo frangente, com'è la situazione, cosa sta accadendo? Sì, dunque il corteo stava arrivando al corteo lunghissimo, con tantissima gente, stava arrivando al termine proprio in Place de la Nation. Io adesso sono a due passi, mi sono un po' allontanato dalla piazza, e mentre il corteo è giunto nella piazza, un gruppo di compagni e compagne si sono lanciati contro una serie di cordoni della polizia che erano asserragliati in uno degli angoli della piazza di questa Place de la Nation, che è una piazza molto grande e circolare. Quello che è successo è che la polizia ha subito risposto con... Aspetta che ti sentiamo poco, ti abbiamo perso. Mi sentite? Ecco, molto meglio, sì. Se puoi ripetere, dicevi, eravate a Place de la Nation, che è questa piazza enorme, circolare, anche abbastanza sgombra, se ricordo. Esatto, in uno degli angoli c'erano... Mi senti un po' meglio adesso? Sì, molto meglio. Devo richiederti, okay, di riassumere. Dunque, i compagni hanno... I compagni si sono lanciati contro la presenza di questa polizia, la polizia ha risposto con una serie di fitti lanci di lacrimogeni, di altro materiale. Poi adesso la situazione si è un po' calmata, mi sono un po' allontanato, ma la situazione sembra si fosse anche un po' calmata, perché un po' la gente è defluita, un po' è entrata in gioco anche, insomma, la polizia piano piano avanzata, cercando anche di svuotare la piazza. C'era ancora, quando sono andato via adesso, c'era comunque tantissima gente che stava arrivando, che era ancora in piazza. È partita una situazione comunque in cui molti hanno preso un atteggiamento anche offensivo nei confronti delle forze dell'ordine. Che è un episodio, lancio, appunto, come spiegavo prima. È un episodio che ha caratterizzato la fine di questo corteo, oppure cioè, mi sembra abbastanza una novità di questo corteo di oggi. Sì, diciamo che è la prima volta da che è iniziata la mobilitazione. Ci sono stati scontri anche molto violenti nel corso di questo mese, ma è la prima volta che c'è una situazione che possiamo definire riot proprio, mm-hmm, in cui ci sono veramente centinaia di persone disposte ad agire contro la presenza della polizia in piazza. Utilizzando delle flash balls, ho potuto vedere almeno i risultati, perché c'erano parecchie persone ferite che sanguinavano alle gambe, chi agli occhi, chi in volto. Stiamo parlando di che parte del corteo, cioè di che componente ad aver Questa preso questa iniziativa? Sicuramente quelli che hanno poi, diciamo, avviato la cosa sono sicuramente lo spezzone più riconducibile ai settori dell'autonomia o degli anarchici, dell'anarchia parigina. Poi sono, insomma, un po' diverso anche che in Italia, però comunque sono più settori, se vogliamo, più radicali rispetto alle altre componenti del movimento. A cui in piazza ci sono anche tantissimi ragazzini, tantissime persone di varie estrazioni, di varie provenienze, che hanno anche le visti coinvolti anche in questa fase che ci stai raccontando, che si è svolta, ricordiamo, siamo in corrispondenza con... Assolutamente, Parigi, poi sì. Ovviamente chi ha partecipato attivamente agli scontri erano qualche centinaio di persone, ma lì nella piazza c'erano comunque diverse migliaia di persone che sono rimaste insomma, a vivere nei vari modi la situazione. E ora la situazione è che come si è concluso questo? Ci sono stati dei fermi, degli arresti? Questo purtroppo ancora non te lo so dire, non sapete perché appunto mi sono allontanato proprio adesso dalla piazza. La situazione mi sembrava stesse un po' scemando, ma immagino che ci saranno magari altre situazioni di tensione ancora prima della fine della giornata. Inoltre, poi questa è solo la prima parte della giornata, perché anche nella serata si prevedono azioni di vario genere e tipo, a partire dall'occupazione di Place de la République, che ricordiamo è al decimo giorno di occupazione. È il decimo giorno di occupazione, esattamente. Quindi adesso ci sono altri appuntamenti a Place de la République in serata, per la serata? Adesso ci sono altri appuntamenti, adesso ancora non so quali sono poi gli appuntamenti serali. Era una voce che circolava da stamattina nel corteo, ma sicuramente ancora la giornata è molto, diciamo. Va bene, noi allora intanto ti ringraziamo di questo aggiornamento continuo che ci stai dando, e sicuramente ti risentiremo nei prossimi giorni o anche più tardi, quindi grazie e grazie a voi. Buona continuazione, buone lotte, ciao. Ciao.